Le nostre vite controllate a distanza, sue fatte da sensazioni telesintetico virtuali che anestetizzano il pensiero. Domani qualcuno davvero poi penserà per te. E mentre corrono le immagini in diretta del grande calciatore che si sposa la modella, qualcuno vuole esercitare la sua libertà di essere schiavo della TV via cavo. Lo schermo invita i nuovi cani pavloviani a prendere testo sul divano. Mi rifiuto di pensare che la vita possa somigliare ad un grande fratello. Mi viene da vomitare perché so che c'è chi pensa che sarebbe proprio bello. Soprattutto perché so che dietro ai tumuli che a 12 minuti sono più rubini e più sporchi del previsto. Credo sia più interessante sopravvivere lasciando stare il resto, aggrappandosi lontano. Lo schermo invita i nuovi cani pavloviani a prendere posto sul divano. Ma qualche cane sciolto ha solo una gran voglia di urlare. Costretti a respirare solo l'aria che hanno scelto, costretti ad ascoltare i suoni che non hanno spento, costretti ad innalzare gli indici di gradimento, costretti a soffocare in un momento la libertà. Incatenate alla stanza, occhi sbarrati, salivazione per immagini in movimento. Questa la diagnosi di entrata occultata, perduta, archiviata in chissà quale città. La terapia sin troppo facile applicata in resezione di quel lobo prefrontale del cervello. Ora l'esercito è composto al suo posto, destino nefasto, vietato il contromano. Lo schermo invita i nuovi cani pavloviani a prendere posto sul divano. Qualche cane sciolto ha solo una gran voglia di urlare. Costretti a respirare solo l'aria che hanno scelto.